Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Solite informazioni di servizio, ormai vi sarete anche, come dire, scocciati di ascoltarle, però bisogna darle comunque perché sono utili. Allora, la prima è quella del sito di Radio 24, dove trovate anche il mio blog, che comunque potete trovare attraverso qualunque motore di ricerca, che è Guardie o Ladri. Visto che è molto visitato, grazie soprattutto a voi, vi invito a continuare a farlo e anche a scrivere, perché mi piace commentare con voi le cose. Seconda informazione, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oggi parleremo di un caso che non giunge da una mail, quindi da una segnalazione di un radioascoltatore, ma sorge dalla lettura dei giornali. Dunque, stiamo parlando del Gazzettino di Venezia del 10 giugno 2010, quindi alcune due settimane fa. Mi ha colpito che nella pagina dedicata al comune di Mogliano Veneto, si trova in provincia di Treviso, il giornale abbia titolato "Scoperta casa di riposo abusiva. Blitz della finanza in una villetta a due piani che fornisce, o forse sarebbe meglio dire forniva, ricovero a 12 anziani". Allora, noi purtroppo siamo abituati a strutture abusive che spesso sconfinano anche nell'essere dei veri e propri lager, ma non è certamente questa la condizione della casa di riposo abusiva a Mogliano Veneto. Dicevo, siamo abituati a leggere cronache che riguardano soprattutto il sud e il centro Italia, ovviamente non solo, ma lì il fenomeno, ahimè, a volte assume dei contorni inquietanti. Sorprende e stupisce trovare qualcosa di simile, vedremo di capire i confini di questa verosimiglianza appunto nel Veneto. Per farlo ho chiamato a parlare con noi il tenente della Guardia di Finanza della Compagnia di Milano in provincia di Venezia, che è intervenuta nel cosiddetto Blitz a Mogliano Veneto, ed è il dottor Salvatore Casabranca. Buongiorno Casabranca. Buongiorno a lei, al dottor Azzolini e a tutti i radioascoltatori. E appunto lo ha anticipato il tenente Casabranca. Buongiorno a Giovanni Azzolini, che è il sindaco di Mogliano Veneto. Buongiorno Azzolini. Allora, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da lei, tenente Casabranca. Che cosa avete fatto con questa verifica e che risultati ha prodotto? Sì. Io intanto desideravo preliminarmente rivolgere un ringraziamento ai colleghi del nucleo della Polizia Tributaria di Treviso, che, con i quali abbiamo collaborato per l'espletamento del servizio, e anche ai funzionari dell'ASL 9 di Treviso e di Mogliano. Il servizio che abbiamo realizzato ha tratto spunto da una verifica fiscale programmata nei confronti del titolare di un'altra attività che almeno ufficialmente ci risultava un'attività di pompe funebri, con luogo di esercizio a Milano e con domicilio fiscale a Mogliano, dove i preliminari accertamenti che abbiamo fatto, i sopralluoghi all'indirizzo di Mogliano, visto che si trattava di un'abitazione civile, abbiamo chiesto anche l'accesso domiciliare che ci è stato concesso dalla G competente. L'autorità giudiziaria, altrimenti giustamente i nostri. Sì, la giudizia giudiziaria di Treviso. Non capiscono i nostri radioascoltatori cos'è AG. Prego. Quindi noi abbiamo programmato l'attività per la mattina del giorno 8, nell'assoluta convinzione di dover reperire documentazione amministrativo contabile riferita all'attività di pompe. Ad un'agenzia di pompe funebri. Invece vi siete trovati degli arzilli vecchietti che pascolavano per questo giardino. Praticamente a rilevare la presenza di 5 stanze dove c'erano dislocati dei letti, insomma una struttura praticamente con 12 signore dell'età compresa tra i 70 e gli 80 anni, con una struttura palesemente adibita ad una casa di ricovero, una struttura di ricovero, casa di riposo, come vogliamo chiamarla. Ecco, perché queste persone mangiavano, dormivano, avevano assistenza in questa casa di riposo abusiva. Sì, è chiaro che lì per lì appunto abbiamo chiesto le eventuali autorizzazioni al titolare, la documentazione ci è stata fornita in parte, una scarna documentazione, più che altro erano richieste inviate agli uffici competenti o ASL o comune, ma diciamo mancava quella che era l'autorizzazione, che appunto abbiamo siamo visti costretti a chiedere supporto sia dei colleghi di Treviso che dei funzionari dell'ASL per poter poi spiegare tutta l'attività. Ecco, ma è chiusa questa struttura adesso? Avete posta sotto sequestro? Sì, la struttura è stata posta sotto sequestro amministrativo, ai sensi della fine amministrativi, perché non sì. Per il caso specifico è stato ritenuto non ricorresso ai presupposti di carattere penale. Benissimo. È stato fatto un sequestro amministrativo. Benissimo. Allora, il caso mi sembra abbastanza chiaro. Ora, abbiamo detto che non si trattava certamente di un lager, queste persone stavano lì, giravano. Ora, quello che mi domando, e lo voglio capire con il sindaco Azzolini, è probabilmente, io non conosco Mogliano Veneto, credo che però a occhio non sia una metropoli, e adesso sentiremo dal sindaco quanti abitanti conta Mogliano Veneto. Mi domando quindi se una cosa del genere può non essere conosciuta, non dico dal sindaco, ma comunque può non essere conosciuta in città, e quindi come un'amministrazione possa tollerare una cosa del genere. Ripeto ancora una volta, non ci troviamo di fronte ad un lager, però insomma, curare delle persone che hanno tra i 75 e 80 anni, dargli assistenza, cibo e quant'altro, è una cosa che va fatta sotto assoluta autorizzazione di igiene pubblica e tutti i crismi delle autorizzazioni amministrative che in questo caso ci sono. Sindaco Azzolini, a lei la parola. No, certo, beh, un comune 30.000 abitanti fra Venezia e Treviso, nel cuore della città metropolitana, quindi con di fatto molte più persone che vivono le nostre aree. Certo. È un luogo dove è stata rinvenuta questa casa che noi chiamiamo, forse in modo più semplice, una casa alloggio, che dà alloggio agli anziani, un luogo di campagna che non aveva avuto, come avete ben detto, le autorizzazioni necessarie per esercitare l'esercizio di casa alloggio per anziani. Bisogna fare alcune procedure, bisogna fare alcune verifiche, bisogna avere i bagni a posto, bisogna essere in regola con quelle che sono le prescrizioni sanitarie. E forse bisogna essere anche accreditati, credo. Il titolare ha detto che queste procedure erano state avviate e aveva già cominciato a ricevere ospiti nella casa. Ecco, ma voi non avete avuto mai non avete avuto mai sentore? Nessuno vi ha mai segnalato niente al riguardo, sindaco? No, ma hanno presentato anche delle pratiche in comune per mettere a norma questa struttura. Altra questione è l'indagine, credo che faccia la Guardia di Finanza, che è giusto, tra l'altro piena collaborazione con la Guardia di Finanza. Guardate, siamo uno dei pochi comuni che abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la Finanza che prevede che chiunque chiede aiuto ai servizi sociali sa che verrà controllato anche nel bene, tempo. Bene, una bene, cosa, bene. E questa è perché rapinare nel sociale è la cosa... No, siamo perfettamente d'accordo. Sindaco Azzolini, le chiedo questo, ma nel vostro comune è crescente la domanda di assistenza per gli anziani? E come vi muovete voi? È la cosa che più che bisogna affrontare in modo qualitativo. Moltissimi sono gli anziani, tanti chiedono case di riposo. Il problema vero è che tipo di risposta dare. Basta i vecchi ospizi dove insomma gli anziani venivano solamente abbandonati. Bisogna immaginare nuove strutture, magari più piccole. Strutture di questo genere potrebbero andare benissimo per le esigenze delle famiglie, purché però siano in regola con quelle certo. che sono norme sanitarie. Ecco, sindaco, quante diciamo, domande? Tolleranza doppio zero per chi non rispetta queste regole. Sindaco, mi scusi una domanda. Quante domande avete voi giacenti di questo genere? Cioè, quante persone si sono fatte avanti con voi per avere la possibilità di ospitare persone anziane? Guardate, alcune, non molte, alcune. Alcune, la procedura infatti sono anche nella conferenza dei sindaci dell'US9, stiamo cercando appunto di incentivare non solo case di riposo ma strutture più piccole dove gli anziani possono vivere più una dimensione familiare, e bisogna fare in modo che queste strutture si convenzionino con la regione in modo tale che parte dei costi siano sostenuti, la cosiddetta quota sanitaria, certo. di 100 euro al giorno, siano dati dalla regione a queste strutture. Benissimo. Benissimo, sindaco, io la ringrazio per i suoi chiarimenti, la ringrazio di essere stato nostro ospite. Ricordiamo Giovanni Azzolini, sindaco di Mogliano Veneto, grazie al tenente della Guardia di Finanza della Compagnia di Milano, Salvatore Casabranca, è lui che ha guidato, come dire, questa verifica fiscale dell'agenzia di pompe funebri, che poi in realtà si è scoperto ospitare in un alloggio 12 anziani, cosa che non avrebbe potuto fare. Grazie in regia Carmelo Lauricella e in studio a Valeria Coffaro, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.